Con Emanuela Martini di Cineforum e Film TV per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare anche un po' un bilancio dell'annata cinematografica e della fruizione della sala. Bentrovata, Emanuela. Ciao, buonasera a tutti. Per prima cosa è difficile tirare fuori 5 film perché complessivamente è stata una buona annata cinematografica e sono usciti dei bei film. Si fa fatica a identificarle, solo 5, magari ci metto un pari merito. Allora, primo in assoluto Foglie al vento o barra Le foglie morte, cioè il nuovo film di Aki Kaurismäki che è giusto in sala in questi giorni e che secondo me è il più bel film dell'anno in assoluto. Kaurismäki è tornato in forma assolutamente sbagliante e con quella capacità di farti vedere il mondo come oggi, ma con un'assoluta leggerezza, mondo tristissimo in realtà, proprio scandinavo al 200%, ma con una poesia dentro, una leggerezza di mano, un senso di humor assolutamente straordinario. Grande cinefilo, tra l'altro, c'è cioè una serie di citazioni cinematografiche magnifiche dentro al film. Secondo, ci metto un film che in realtà si è visto l'anno scorso a Venezia, ma è uscito in sala soltanto quest'anno, a inizio anno, che è Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh, che appunto noi tendiamo a collocarlo sull'anno scorso, ma in sala, in Italia è uscito quest'anno. E questo è un altro film, secondo me, abbastanza sorprendente, anche perché, certo, i cinefili si ricordano chi è Martin McDonagh, ma non è un nome così conosciuto. Il suo film più famoso precedente è in Bruges, con la stessa coppia di attori, cioè Colin Farrell e Brendan Gleeson. E questo è un film assolutamente beckettiano, abbastanza sorprendente come narrazione. Terzo film, un altro film che si era visto ai festival lo scorso anno, che è Aspetta, di Rodrigo Sorogoyen, uno dei migliori registi spagnoli contemporanei, un film imprevedibile, cioè la storia tipicamente spagnola di campagna contro città da un certo punto di vista, e come parte tu ti aspetti che vada in una certa direzione, invece va in un'altra, è un film notevolissimo. Quarto, Killers of the Flower Moon, Scorsese. Forse avrebbe meritato anche un posto più alto, probabilmente molto, so che in molte classifiche è al primo posto in questo momento. È un gran film, però mi piaceva di più citare dei film più piccoli prima. Sul quinto io darei un pari merito a due italiani, che sono Rapito di Marco Bellocchio e Il Sol di l'Avvenire di Nanni Moretti. Bellocchio tornato a una straordinaria giovinetta, il ragazzino del cinema italiano praticamente è stato. Non sbaglia un film, non sbaglia un tono, non sbaglia un'inquadratura. Rapito è straordinario, puro melò in certi punti, pare di vedere dei film di Freda degli anni 50, puro melodramma, però un film potentissimo anche dal punto di vista politico, veramente. E con Il Sol dell'Avvenire, secondo me, appunto, Moretti ha fatto anche un pochino la sintesi del suo lavoro e del suo cinema. Non voglio dire che sia diventato umile, che Nanni Moretti non è mai umile, però guarda a se stesso e al suo cinema con una grandissima lucidità. Questi sono i 5, 6 perché sono pari merito. Poi in realtà ce ne sono stati tantissimi altri, da Loach, Old Dog a Babylon, anche questo è uscito inizio anno, per cui e poi ho avuto molte opinioni contrarie, ma in realtà è un film di una generosità, con degli errori, certo, una generosità straordinaria. Dogman, Stone, altro film inaspettato, penso ne erano anni che non faceva un film del genere. E poi vorrei citare un film piccolissimo, non nuovissimo, uscito in Italia soltanto quest'anno. Vale la pena di recuperarlo, è sicuramente da qualche parte in streaming, che si intitola Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo. È una storia d'amore, bizzarra, di una regista ungherese che si chiama Lili Horvat. Piccolissimo, ma assolutamente da recuperare. Come va il cinema? Il cinema come qualità, tutto sommato, tutto, ripeto, essendo usciti e andati in streaming tanti bei film, non ho citato quelli in streaming. Il cinema non va male. Come fenomeno sociale, beh, chissà, c'è stato un po' questo fuoco autunnale tirato dal film onorevolissimo, dal buon film di Paola Cortellesi, Benemerito, poi molto importante come tema, come sviluppo, eccetera, eccetera. Per cui pare che la gente torni al cinema, lo metto col punto interrogativo, non lo so, io ci spero, temo che sia. sia un fuoco di paglia, temo che sia una cosa stagionale. È chiaro che tutto il discorso delle sale, delle uscite, eccetera, deve in qualche maniera essere aggiustato, perché comunque non è che bastino eventualmente 3 mesi e 5 film per cambiare la discesa complessiva degli incassi e del fenomeno cinema. Io spero che ci tornino anche non solo a vedere i blockbuster. Ah sì, tra l'altro un altro film che era da citare, che non ho messo dalla cinquina, è Oppenheimer, un altro film che curiosamente sono andati a vedere i giovani. Io spero che ci tornino i giovani, non solo appunto a vedere i blockbuster, ma anche a vedere un tipo di cinema diverso, perché il blockbuster comunque è occasionale. L'altro cinema è quello che si va a vedere tutte le settimane, o almeno ogni 15 giorni, eccetera. Non lo so se questo accada, ho la sensazione di no, cioè la proiezione è chiaro che è cambiata, però io, cioè la speranza evidentemente è che la sala sopravviva e sopravviva bene, perché comunque è un tipo non solo di fruizione, non è solo una questione di grandezza dello schermo, eccetera, eccetera, è veramente una questione di percezione del film, ma anche di se stessi, cioè del tipo di passatempo che può essere il cinema, che non è soltanto appunto sentirsi raccontare, vedersi raccontare delle storie, però non lo so, onestamente. Emanuela, un abbraccio, auguri e a presto! Grazie, auguri anche a te, auguri anche a voi.